You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 con l'Italia che cambia anche grazie alla presenza di persone che hanno origini straniere. Lo facciamo attraverso la suggestione cinematografica del film da cui traiamo spunto, Indovina chi viene a cena, ma anche da altri film. Da questa stagione abbiamo introdotto dei sonori tratti da altri film o serie televisive come I Soprano, che avete sentito, ne sentirete altri. Questa sera cena al albanese, italo-albanese, perché il nostro ospite è uno scrittore, un giornalista, un giurista italo-albanese e stiamo parlando questa sera con Dariel Levani. Buonasera. Buonasera Valentina, grazie dell'invito. Autore dell'ultimo libro pubblicato per Edizioni Spartaco Toringrad, un libro già dalla copertina molto affascinante, molto accattivante, un rosa shocking con la mole antonelliana. Tu sei uno scrittore, anche se giovane, molto giovane, e in realtà già affermato, hai pubblicato il tuo primo libro nel 2010 e poi dei racconti da cui è stato tratto anche un corto e anche dei libri in albanese, anche dei libri pubblicati in Albania. Quindi sei uno scrittore bilingue che ti dividi a metà, insomma, tra l'Italia e l'Albania, un po' come la tua vita. Sì, sì, giustamente, anche perché così, avendo sempre avuto la curiosità di studiare certi fenomeni, di cercare di comprendere, ovviamente lì poi trovo spunto anche per scrivere delle storie, le quali poi sono un po' loro a decidere, diciamo così, in quale lingua vogliono essere narrata. Non mi pongo mai l'obiettivo scrivo nella lingua A oppure lo scrivo in una lingua B. È un po' la stessa storia, i personaggi, i ritmi che ti indicano e ti guidano verso quella lingua e io li seguo così, diciamo, fedelmente, ecco. Beh, poi scopriremo un po' quali storie chiedono di essere narrate in italiano e quali in albanese, scopriremo un po' di più di questo libro, ma io so che tu ci hai portato un piatto questa sera per la nostra cena a Radio 24. Sì, io come tutti gli ospiti che così si ricordano sabato sera di essere stati invitati, mi sono fermato al pasticcere di sotto, ho comprato dei burek che ho fatto finta di averli fatto io, però sì, è uno dei piatti tipici albanesi più diffusi, il burek. È un piatto che tu, vabbè, hai preso in pasticceria, ce l'hai confessato, ma insomma che tu apprezzi anche perché ti ricorda il tuo paese, immagino. Sì, Sì, anche perché è uno di quei piatti poveri che si fanno anche con poco, ma è proprio a volte anche questa cucina che ha una certa solennità, una certa tradizione, un certo rito. Quindi, oltre ovviamente al prodotto finale, diciamo il burek, c'è anche tutto quello che sta dietro, ecco, è uno dei motivi per cui adesso è uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Raccontiamo qualcosa di te. Tu nasci in un paesino del sud dell'Albania e ti trasferisci in Italia nel 2000 per studiare giurisprudenza. E pubblichi nel 2010 questo Solo andata grazie ai popoli degli abissi, dei racconti, no? Hai esordito con dei racconti insomma, sulle persone straniere in Italia. Esatto. Io tanto, diciamo così, tra un esame e l'altro ho cercato un po' anche di narrare quello che vedevo e quello che succedeva attorno a me. In quel momento la forma dei racconti era il modo più, secondo me, più idoneo. E si tratta essenzialmente poi di storie, come dire, delle persone messe ai margini per motivi, per i più vari motivi sui quali adesso non stiamo a discutere. E poi anche un omaggio involontario, diciamo, a Jack London, che è da scrivere un bellissimo libro intitolato Il popolo degli abissi al singolare, riferendosi, lui poi era, sappiamo, estremamente socialista, quindi identificava tutta la povertà quale popolo, e un po' ripreso quel modo di narrare, questa volta però parlando di popoli, di tutti quei popoli che confluiscono nell'Europa, diciamo così, continentale, perché ritenevo ci fosse delle storie straordinarie, ma ancora prima da un punto di vista, diciamo così, sociale, politico, da un punto di vista narrativo, che è la cosa che mi interessava di più. Nel 2010 sempre partecipi in un'antologia, insomma, di racconti con un racconto, Ladri di biciclette, che diventa anche un cortometraggio, L'importanza dell'essere in sintonia con l'universo di Federico Micali. Beh, un onore comunque che un tuo racconto sia diventato un cortometraggio. Com'è nata questa idea? Sì, è nata, è stata una cosa, sì, effettivamente molto bella. È nata da un'idea di Francesca Spinelli, che lavora per Internazionale, e quindi avevano un po' l'idea di riprendere Montesquieu, un vecchio scritto di Montesquieu, e quindi tradurlo nell'Italia di oggi, le lettere persiane. Quindi mi dice, ma lei sicuramente conosce, no, le lettere persiane? Io ho detto certamente, non avendo la minima idea, però ripromettendomi poi di andare su Wikipedia e poi anche di leggerlo. Sono passati 6 anni, ma non ho ancora letto, spero prima o poi Di di colmare la farlo. lacuna, che le colmeremo prontamente anche noi dopo la trasmissione. E poi da lì è nato anche l'interesse per questa web serie. Furono fatte, se non erro, 6 piccoli, 6 corti, tra i quali anche il mio racconto, che poi anche questa è una cosa fantastica, nel senso che se va bene questo corto, se piace, posso sempre dire, beh sì, piace perché insomma c'è il mio racconto dentro e si vede, invece se non piace posso sempre dire, vabbè, ma io ho scritto solo il racconto, il resto non so cosa hanno fatto esattamente. Allora sentiamo proprio un breve estratto da questo corto tratto dal racconto Ladri di biciclette di Dariel Levani. Ciao fratellino, come va? Immagino che sei in preparazione del bagaglio per venire in Italia. Mi raccomando, non fare che ti riduci all'ultimo a preparare la borsa e poi ti scordi qualcosa. Sì, dai, lo so che hai già organizzato tutto, ma rimango pur sempre il tuo big brother. Anche se siamo gemelli e sono maggiore solo di un'ora, sarò sempre io quello che ha più esperienza in questo mondo. Come già sai, quando arrivi non ci sarò. Mi dispiace davvero, ma sono sicuro che capirai. Avevo già pensato ai luoghi che ti avrei fatto vedere e che ti avrebbero fatto apprezzare veramente il carattere di questa città, mostrandotela oltre il filtro finto e patinato con il quale troppo spesso viene ingiustamente rappresentata. Quindi, ecco una piccola lista di cose da imparare a memoria per passare al meglio il tuo soggiorno. Tranquillo, sono semplici indicazioni, niente di complicato. Buongiorno Elvin, Le chiavi le trovi dal portiere. Ha sempre una copia di sicurezza nel caso perdessi le mie. Quando arrivi gli dici che sei uscito senza chiavi, te le fai consegnare e sali tranquillamente in casa. Tanto il portiere, come tutti del resto, nemmeno si accorgerà che tu non sei me. Proprio davanti casa c'è un fornaio che vende la schiacciata veramente buona. Stai certo che ancora prima di chiederti cosa vuoi comprare, ti farà la fatidica domanda. Oh, Harry, allora, com'è andata domenica? No, non vuole sapere cosa hai fatto e dove sei stato. Come molti degli italiani, anche lui è pazzo per il calcio e vuole sapere il risultato del Tirana Football Club. Eh sì, mi sono dovuto fingere tifoso del Tirana per poter avere con lui una conversazione che vada oltre i soliti commenti sul tempo che fa. Ogni tanto gli dico che abbiamo vinto, ogni tanto gli dico che abbiamo perso. Così, molto casualmente. Più o meno faccio due conti e cerco di stare verso la metà della classifica, non troppo in alto per evitare discorsi sulle coppe internazionali, non troppo in basso vicino al rischio di retrocessione. Tu digli pure che hai vinto, almeno ti prenderai i complimenti ed un bel sorriso. Potrà anche capitarti di incontrare una signora un po' strana che parla con il suo cane, lei si chiama Antonella. Ciao Elvis, allora? È strana, ma è anche una bravissima persona, davvero, però è un po' razzista. Qualche giorno fa le hanno rubato una bicicletta e lei è convinta che io sappia chi è stato. Secondo lei, noi stranieri ci conosciamo tutti e prima di rubare qualcosa ci avvisiamo a vicenda. Che detto tra noi sarebbe veramente stupendo, non credi? Ogni volta che mi vede mi chiede se posso ritrovargliela. Le ho detto che mi dispiace molto per la sua bicicletta, ma che onestamente non avrei la minima idea di chi possa averla presa. Credimi, lei non pensa che siccome dovrei sapere dov'è la sua bicicletta allora sono un ladro. In realtà, credo che non pensi proprio. Ci fermiamo brevemente perché abbiamo una piccola pausa, ma torniamo subito a parlare di Thoringrad con Darien Levani. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì? Beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datemi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! That's the story of... That's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. Torniamo con voi a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo di un romanzo che è stato pubblicato per Edizioni Spartaco, Thoringrad di Darien Levani, che è lo scrittore italo-albanese, anche giornalista, giurista, che abbiamo con noi questa sera come ospite. Stavamo parlando del perché si è deciso a raccontare questo sottobosco in questa città, Torino. È un giallo, è un romanzo giallo in cui questo protagonista, suo malgrado, entra a far parte di un giro del mondo dello spaccio della cocaina, no? Esatto. Io quando scrivo ho sempre una regola molto, molto semplice, che è più o meno la seguente: scrivi di quello che sai, non scrivere di cose che non conosci. Ed io ovviamente conosco bene la mia nazione, la mia nazionalità, e altrettanto ultimamente per motivi di lavoro sto imparando e ho conosciuto bene anche il mondo, diciamo, che ruota attorno allo spaccio di stupefacenti. La criminalità, diciamo, la questione penale è una chiave di accesso e di lettura molto molto interessante quando parliamo della storia contemporanea. Anche a prendere solo la storia dell'Italia degli ultimi 20 anni, è stata anche storia di cronaca giudiziaria, ad iniziare dal 92 e fino alle più recenti questioni. E quindi mi sono chiesto come e fino a in quale misura posso usare una storia di criminalità, di penalità, per cercare di dare una visione, per cercare di parlare di quello che sta succedendo in questo momento in questo paese. E ho visto che era interessante, ho visto che tramite quell'ottica potevo mettere a fuoco una serie di elementi, come può essere l'integrazione, la difficoltà economica e quant'altro, e quindi ho proseguito poi per quella strada. Pare anche con risultati discreti, quindi sono molto contento di questo. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. Leggendolo, si ha anche l'impressione di scoprire un mondo che hai più non è conosciuto, quello del mercato degli stupefacenti. Come lei è riuscito a conoscere questo mondo e a raccontarlo? Diciamo attraverso due modi essenzialmente. In primis, perché lavorando in uno studio legale ed occupandomi anche di difesa, ho avuto a che fare più e più volte di soggetti indiziati o condannati per questi reati. Bisogna tenere conto che stiamo parlando di un problema gravissimo sotto due aspetti. Intanto perché non riusciamo a vincere questa guerra, cosiddetta guerra contro la droga. Dico cosiddetta guerra perché la guerra ha un inizio, un sviluppo e ha una fine. Questa, che portiamo avanti oramai da quasi un secolo, non ha una fine, non si vede. Ma inoltre perché, se dobbiamo credere ai dati del Viminale, che insomma sono sempre un po' fumosi, un terzo dei detenuti nelle patrie galere sono detenuti per reati collegati al stupefacente. E quindi questo è un dato molto molto importante che noi dobbiamo avere presente quando parliamo di politica criminale, di prevenzione e di rieducazione. Quindi c'è un'esperienza diretta. C'è inoltre anche uno studio, nel senso che grazie a Dio c'è una direzione nazionale antimafia che funziona benissimo, talmente bene che ogni anno mettono in rete questi rapporti sullo stato della criminalità organizzata in Italia di centinaia di pagine, che io, avendo un interesse forse anche insano per la criminalità, ogni anno mi vado a leggere. Ed è interessante perché lì poi scopri anche proprio le storie, le persone, gli uomini, le azioni, oppure le intercettazioni, che sono una cosa da un punto di vista narrativo straordinario, perché non c'è cosa più interessante che leggere quelle che certe persone hanno detto senza sapere di essere intercettato. Quindi con una genuità di comunicazione che proprio va al di là di ogni sforzo di invenzione narrativo. E quindi nasce questo libro, non perché io così una bella mattina mi sono detto vabbè, oggi scrivo un libro su questo argomento che ho letto un articolo un'ora fa e quindi mi attrae. Nasce in realtà da un lavoro di ricerca che è durato tantissimi, tantissimi anni. Drini è il protagonista, no? Esistono questi personaggi nella realtà della malavita albanese? Certamente esistono, nel senso che io li ho conosciuti, li ho difesi e quant'altro. Ovviamente Drini poi è un personaggio inventato, quindi posso dire così, tutto quel che racconto nel libro è successo più o meno, non a Drini, è successo a una decina di altri soggetti. Poi io ovviamente ho sintetizzato e ho canalizzato tutto verso il personaggio principale, però ecco, possiamo dire che si tratta di una storia vera. Guardi, giusto per concludere, mi è capitato di leggere un paio di anni fa un'intercettazione tra presenti, un ambientale, altrimenti di due soggetti che parlano in auto di stupefacenti, e uno dice: guarda, io guadagno, metti caso, circa 100.000 euro all'anno facendo questo lavoro. Metti che poi mi prenderanno, farò 3-4 anni di reclusione, avrò speso 5 anni della mia vita, però avrò guadagnato 100.000 euro, quindi 20.000 euro annualmente. Io dico, andare a cercare un lavoro onesto magari non li guadagno neanche. E queste sono cose, diciamo, vere, che hanno detto delle persone vere, effettive, quindi questa ti dà anche un'idea della misura della lucidità, della ricerca quasi scientifica che operano poi questi soggetti simili a Dreamy. Mi chiedevo, non c'è il rischio di, con questo romanzo, poi un romanziere non si pone probabilmente queste domande, però un lettore sì, non c'è il rischio di alimentare gli stereotipi sugli albanesi, sulla malavita albanese? Me lo sono posto, mi accompagna, diciamo, da quando è uscito, però quello che mi sono detto è che io in primis ho un dovere, diciamo così, di verità narrativa che corrisponde alla realtà del territorio, di quello che sta succedendo veramente. Cioè, non è che se io, in quanto albanese, nascondo che sta succedendo questo aspetto, allora sto facendo un favore a chi che sia, a me stesso. Ritengo che non si combattono quindi gli stereotipi nascondendo dei fatti o mettendo la polvere sotto il tappeto, anzi, proprio per metterli meglio in luce, ritengo sia importante narrare questa storia. Perché, per esempio, una delle cose di cui mi sono accorto è che quei soggetti lì, di cui stavi leggendo anche tu, non hanno mai avuto un problema di integrazione come l'hanno avuto gli operai, gli studenti e quant'altro, perché sono riusciti a fare, come continuano a fare, lavori con chiunque, affari con chiunque. Quindi se c'è da guadagnare, se c'è da lucrare anche sull'illecito, non c'è razzismo, si lavora benissimo con i serbi, con i turchi, con gli italiani, e questo è importante. Io ritengo che vada detto per capire bene di cosa stiamo parlando. Quando parliamo di, come dire, di integrazione, ci riferiamo a persone che studiano, lavorano e fanno un'altra cosa, senza dimenticare che c'è anche questo aspetto che dobbiamo in primis mettere bene a fuoco per poi valutare come sconfiggere, come neutralizzare. E quindi, in virtù di questo, per quanto io ancora mi chiedo, ma chi me lo ha fatto? Me l'ha fatto fare, no? di parlare, diciamo così, tutto sommato male dei miei connazionali, però ecco, credo che il dovere di verità sia superiore a un presunto dovere di nazionalità. Magnified, sanctified be the holy name, vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the love that never came. You want it darker, kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Sono i tuoi riferimenti letterari? Sono molteplici e forse non solo letterali, nel senso, quel che ho capito è che sono stato influenzato da qualsiasi cosa con cui sono venuto a contatto, quindi ovviamente scrittori come, per restare in Italia, Scerbanenko, Gada, Camilleri, ma anche, per esempio, io mi ricordo quando ero piccolo e vivevo in Albania, c'era ancora l'ancien regime, diciamo la Repubblica Socialista, ogni volta che dovevo andare a scuola c'era questa scritta enorme in rosso del tipo gloria al socialismo, ed era una cosa che leggevo ogni giorno. E anche quella, nel suo piccolo o nel suo grande, è stata ovviamente un'influenza per farmi capire come un regime si propaganda e come si mette in relazione con i suoi, come posso dire, con i suoi cittadini, anche se poi cittadini non sono. Quindi le influenze sono molteplici, dico solo uno a livello, diciamo così, proprio musicale, il buon Leonard Cohen, che mi piace ricordare in questi giorni. Che è scomparso proprio in questi giorni, hai fatto bene a ricordarlo. Adesso ci sarà un altro passo, rientriamo. Darian Levani, allora, per chiudere, una notizia di cronaca che ci porta a parlare della presenza degli albanesi in Italia. Proprio nei giorni scorsi una donna albanese a Pordenone è stata condannata, albanese, di cittadinanza ormai italiana da 16 anni in Italia, islamica di religione, condannata a pagare 30.000 euro per aver indossato il niqab e perché le hanno chiesto di farsi riconoscere un consiglio comunale e ha rifiutato. Questo tipo di, ovviamente qui si tratta di posizioni legate al credo religioso. Ci sono molti musulmani ovviamente in Albania, adesso ce ne sono abbastanza anche in Italia. Che posizione hai rispetto a questo tipo di difficoltà di integrazione? Si apre, diciamo così, un scenario incredibilmente complesso. Abbiamo un paio di ore, giusto, per discutere di questo? No, un paio di minuti. Allora, ovviamente, come dicevi, giustamente bisogna mettere in relazione due esigenze opposte. Da un lato, diciamo, la sicurezza e la legalità di uno Stato, e dall'altra la libertà religiosa. Io non so qual è quel limite, qual è il bilanciamento, e rispetto, pur non essendo io credente, rispetto chi deve professare una religione, quindi manifestarla anche tramite segni esteriori, però ritengo che lo Stato, d'altra parte, essendo uno Stato laico o appunto laico, deve garantire anche chi non crede. E quindi, per esempio, quello anche del burka, del burkini e del riconoscimento è un problema che si presenta sempre più drammatico, perché è lì poi che si è spostato lo scontro, almeno a livello dialettico. Quello che io noto, non ho risposte, ho solo domande, quello che io noto è che questo contrasto ci sta dicendo molto su chi siamo noi. Cioè non su chi sono, cioè non soltanto su chi sono i musulmani o i cattolici o le altre religioni, ma chi siamo noi in quanto Stato laico e fin dove possiamo permettere di estendere i diritti a chi vuole credere. Ovviamente è una questione che purtroppo non si risolverà nei prossimi 5, 10 e forse neanche nei prossimi 50 anni, perché questo bilanciamento, cioè, se togli da una parte ne aggiungi dall'altra, se aggiungi più libertà religiosa probabilmente ne sottrai a chi crede fortemente nello stato laico. Aggiungo solo con piacere che, salvo questa donna che presumo sia più o meno un'eccezione per il panorama albanese, gli albanesi hanno sempre avuto problemi ben più seri come la costruzione di uno Stato e di un'identità nazionale, e quindi l'identità religiosa è sempre stata in secondo, se non in terzo piano, maggiormente. Poi ovviamente ci sono i credenti, ci sono i fedeli che tutti rispettiamo, però abbiamo avuto anche una rinascita nazionale nel secolo scorso che ha sempre posto l'accento prima sulla nazionalità e solo successivamente sulla religione. E questa è una cosa, ecco, di cui io vado fiero in quanto albanese. Un'ultima domanda. Tu sei arrivato nel 2000 in Italia e avrai visto cambiare l'Italia e cambiare anche l'Albania. Torneresti a vivere in Albania? Assolutamente sì. Nel senso, l'Albania è un paese che ha avuto un progresso straordinario. Facciamo conto solo che nel 1997 noi eravamo sull'orlo della guerra civile e forse un po' oltre l'orlo. In 20 anni lo Stato si è ripreso, siamo parte della NATO, giusto l'altro ieri ha avuto luce verde da parte della Commissione per iniziare i negoziati, e quindi un paese che è cambiato molto rapidamente. A parte questo, poi oggi ritengo non si parta più come si partiva negli anni 90, vado a migrare e non tornerò mai più, l'Albania è qua, a un'ora di aereo, ci può andare a vivere un paio di anni, tornare in Italia o altrove, come effettivamente fanno tantissimi amici che conosco. Grazie per essere stato con noi, a Darien Levani, scrittore. Vi consiglio in libreria, davvero, vi consiglio questo romanzo appassionante, Thoringrad. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi dell'invito, buonasera. Grazie a Valeria Bernardi in regia per la collaborazione in questa puntata. Tutti voi per essere stati in ascolto. Scrivetemi se avete dei consigli, delle critiche o qualsiasi altra cosa vogliate dire. vfurlanetto@radio24.it. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao, sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory.